Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. La parola d'ordine di oggi è Fight Club, Drago, perché giovedì a Chiedo Asilo si consacrano i Fight Club. Consacrano, la benedizione, i ma talk show televisivi. Consacriamo Chiedo Club. Asilo ai Fight Club talk show televisivi. Che cos'è? Che lingua è? Stai cambiando la... Vabbè. Comunque diciamo che i talk show continuano imperterriti, ormai il ring è affollatissimo, i combattimenti si svolgono in continuazione, è difficile star dietro a tutto. È perché quindi... il caso Ruby è in continua evoluzione. Noi non possiamo stare dietro a tutto, però possiamo dire di avere uno scoop davvero unico. Sì, ma non rovinare la sorpresa. No, no. Il programma è appena iniziato e lo scoop va servito dopo la prima metà. Sì, quindi va servito freddo. Freddo. E per ora andiamo a sentire quello che i bambini e le bambine dell'asilo Italia pensano della faccenda Bunga Bunga Ruby Rubacuori. Come facciamo? Sì, il campionato di Mirror Climbing lo vince la bambina Santanché. Di? Mirror Climbing, cioè arrampicamento sugli specchi. Sarà specialità olimpica a breve. Comunque questa settimana la miglior mirror climber italiana è stata la bambina Santanché, sì, che invece di concentrarsi sulla prostituzione minorile si concentra sulle spese delle intercettazioni. Ma la cosa più grave che dovrebbe indegnarci tutti è che sì, chiunque varcasse il portone di l'intimità Arcore di una bambina era intercettato. Capito, sapevano attraverso una tecnologia molto molto dispendiosa chi entrava dentro, chi quanto stava, senza aver commesso nessun reato. Sono stati spesi non so quanti soldi così, messe a disposizione di questa inchiesta scientifica delle tecnologie sofisticatissime, ma senza che ci fosse un'ipotesi di reato. Ma lei sugli specchi alla fine è facile che si arrampichi, con le labbra, no? Fa un po' ventosa. Certo, poi le unghie le ha anche belle affidate. Su così. Vabbè. Sì. Però comunque, lei è cuneese. Cuneese, capito? Sì. La gente cuneese, sai, i cuneesi è gente, capito? Gente cosa? Gente... Non si capisce. Vabbè, qui mirror climbing ai massimi livelli. Poi c'è anche comunque il bambino Massimo Boldi, che resta sull'ambiguo e dice che lui, sì, alle feste ci andava 30 anni fa. Lei ci ha partecipato mai? Alcune volte sì, ma però 30 anni fa. E c'erano tutte queste ragazze anche allora? Eh beh, si faceva la televisione, qui non ci sono mica tante ragazze. Diciamo che sono feste normali, non c'è niente di scandaloso. Che? Sono feste normali, non c'è niente di scandaloso. Che? E ora bambini, ricreazione! Non c'è, ti dico che non c'è da nessuna strano parte però. Vabbè, non c'è. Ma si vede che è malato. Approfittiamo, no? Approfittiamo. Per una volta che non c'è il bambino. Mi sentite? Ma dov'è? Sono qua sopra. Come sopra? Ma bambino Alberto, ma cosa ci fai lì? Ma vieni giù, cosa fai lì? Avvicinatevi al tronco. Ma sei su un albero come una Bertuccia. Cosa bambino fai Bertuccia? Lì, bambino Bertuccia. Mi sentite? Sì, sì. Allora, cosa fai lì su? Eh beh, qui, allora, siccome c'è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e qui ci sono delle celebrazioni, no? Sì, sì. Degli eventi. Sì, sta attento che ti cadi lì, sta attento. Tieni giù. Aspetta. Le mani, tieni attaccato. Adesso, ecco, sono stabilizzato. E quindi facciamo anche delle messe in scena, no? E qui a me è toccata la parte della piccola vedetta lombarda. Ah beh, bellissimo. Bellissima cuore, cosa, dai. Bella, una bella fregatura. Ma perché vabbè, piccolo lo sono. Lombardo anche. Perché sono lombardo, Sì. Ma sul fatto della vedetta però, lì no, non ci siamo. Vabbè, la vedetta. Perché, scusa? Che io non so neanche nemmeno bene cos'è. Ma vabbè, ma come? La vedetta, bambino Alberto, è la sentinella, no? Che avvisa quando avvista, capito? Quando avvista, avvisa, no? Avvista quando avvisa? No, avvisa quando avvista, cioè, sta lì, avvista e poi avvisa, esatto. Capito? La sentinella, no? Serve per vedere se arrivano gli austriaci, i nemici. Vabbè, ma chi sono gli austriaci? Gli austriaci, saprai qualche austriaco, no? Li sai chi sono gli austriaci? Austriaci vuol dire tipo Niki Lauda? Ecco, bravo, sì. Niki Lauda, sì. Mozart. Sì. Bravo. Sì. Schachner. Sì. Proasca. Ecco, bravo, bravo. Cos'è quindi Proasca? Proasca è quello dell'Inter, della Roma, un giocatore degli anni Ottanta, non so come faccia a saperlo. Calcio, ma sì, no, calcio. Vabbè, no, austriaci però... nel senso del... E allora chi? Valdain. I soldati, no? Valdain. Vabbè, però per riconoscere un austriaco giustamente deve sapere che faccia hanno più o meno gli austriaci. Com'era Proasca? Quindi, con i baffi, i capelli ricci, anche no, Schachner, ricci, si assomigliano un po' tutti. A metà dell'Ottocento. Allora sono tutti così, quei ricci, tipo Radetzky. Vabbè, comunque sia, quanto tempo devi stare lassù, Alberto? Alberto? Per me non lo so, per gli altri me ne accorgo, perché a una certa ora tutti gli altri bambini vanno via. Vabbè, e rimangono lì da solo come un cane sull'albero. Non è mica giusto, eh. E poi tra l'altro la piccola vedetta lombarda muore, no? No, sì. Dai, muore, fatemi scendere. No, a momento. Dai, fatemi scendere. Scendere no, perché ti hanno dato un compito che è proprio quello di proteggere la patria, quindi io credo che tu debba essere... Ma quale patria? La patria. Tu sei la piccola vedetta lombarda, la patria è la Lombardia, eh? Ma che patria è la Lombardia? La Lombardia, io poi io sono Padania. Di Milano. Cosa c'è dalla Lombardia? Milano è la capitale della Lombardia. Ma io sono sempre stato a Milano, non sono mai stato neanche a Monza. Oh, allora adesso è il momento dello scoop. Lo scoop. Mai parola è stata più azzeccata. Certo. Scoop. Con una U, con una O. Sì, zitto, allora, zitto, non anticipare. Abbiamo in esclusiva per Chiedo Asilo un'intervista con una parte anatomica di Ruby Rubacuori. Eh sì, perché oggi parleremo con il suo Bunda. Il suo Bunda Bunda. Ma cosa dice? Bunga Bunga. Oh, Drago, vedi, sei il solito superficiale. Ma chi io superficiale? Fermi alle consonanti. Me lo dici tu. Bunda è una parola portoghese, brasiliana, che sta per... culo. Ruby è marocchina, ma ha dentro del sangue brasiliano. È tutta una storia molto complicata, perché il suo culo alla fine è brasiliano. Ma cosa dici? Se lei è marocchina, allora, senti... non può avere il naso francese. Allora, vabbè, forse un po' sì. Lei è il culo della signorina Ruby. Ci racconta la sua storia? Bunga Bunga. La bella tradizione africana. Trazida pelos colonizadores portugueses pro Brasil. Bene, andate in Brasile. E aí, foi e quando os marroquinos que viviam no Brasil emigraram para a Itália. Marroquini dal Brasil. E aí Brasil foi que tudo se transformou em bunda, bunda. Só bunda, bunda, só bunda, bunda. Vai, vai, vai, vai. Ma quindi, cosa vuol senti dire? Come canta, il culo di Rumi è fantastico. Bunda, bunda, vai. Infatti, tutti dicevano, manca solo una parola col culo. Invece... c'è anche la mala voce. Vai, bunda, bunda, vai. Bravo. Potremmo avere... Drago, giù le mani, dai, cantante. Bunga, bunda. Somari e mandate i vostri nananana alternativi a Chiedo Asilo e radio24.it. No, è solo nananana che devi far così, sembri Asta Damiano, te lo ricordi? Cosa? Più convenienza Asta Damiano, la felicità Asta Damiano, andiamo domani Asta Damiano. Asta Damiano, non è che facciamo pubblicità gratuita Asta Damiano? Secondo me sono falliti. Sono le 9 qui. Qui non c'era, non vedo nessuno, Occio che arriva qualcuno. Che riccioli che ha. No, che baffoni, Ma non è pro, non sono mica pro asca? È soltanto ancora 20 metri. Ma è pro asca, dai, pro asca, vado a casa. Dai che pro, questo è pro asca, perché per forza i baffi, i riccioli. Sono pro asca! Ah no, è Schachner.